Quando raggiunse il convento, il sole calante aveva lanciato sopra il tempio vermiglio e oro una rete fluttuante di luce e stava lentamente ritirandola attraverso la foresta. Gli uccelli cantavano quelle melodie della sera che avvertono che la luce se ne sta andando e presto sarà scomparsa. Andò direttamente al grande braciere al centro del cortile e vi gettò il denaro per gli spiriti, arretrando per osservare la carta prendere fuoco, arricciarsi e diventare cenere. Come al solito, la vecchia monaca dalla faccia butterata arrivò prima che si incenerisse del tutto, l'abito scuro di tela di sacco coperto di polvere che mandava riflessi luccicanti passando nei punti illuminati. Amitabha! Si inchinò profondamente. Onorata padrona, devo accompagnarvi alle vostre preghiere? Non oggi. Ho urgente bisogno di andare a parlare con la Madre Superiora. Senza un moto di sorpresa o di curiosità, la monaca si inchinò di nuovo. Vi prego, venite con me. L'una di primavera la seguì su per i consunti gradini di pietre, poi lungo una veranda curva fino a una piccola stanza talmente lontana dal sole che era già immersa nel buio. Conteneva soltanto due sgabelli e un tavolo di quercia su cui guizzava una piccola lampada. Vi prego, aspettate qui, disse la monaca e chiuse la porta dietro di sé. L'una di primavera rabbrividì, sorpresa che il pavimento di terra battuta fosse asciutto, che l'acqua non vi filtrasse. Sedette in attesa, raccogliendosi nella gonna, immobile come una pietra avvinghiata da muschio rampicante. Una falena girava intorno al lucignolo e il suo volo veniva proiettato sulle pareti, formando creature che sembravano inseguirla, sempre più vicino al lucignolo, finché fu catturata e cadde nell'olio del piattino. Si agitò un poco, poi le sue ali caddero inerti. Finalmente la vecchissima Madre Superiora scivolò dentro con la sua voluminosa veste di tela gregia che ondeggiava. L'una di primavera non l'aveva mai incontrata, solo intravista in lontananza, poiché la monaca non si interessava di donne non affidate alle sue cure, a meno che non richiedessero uno degli speciali servizi del convento. Inclinando il capo, sedette senza una parola. Senza una parola, l'una di primavera si tolse dal polso i due braccialetti d'oro e li mise sul tavolo. Gli occhi acquosi della vecchia monaca erano quasi ciechi, ma calcolò il valore dei gioielli con un solo sguardo. Poi chiuse lentamente le palpebre e, respirando a fondo, li afferrò, curva come un avvoltoio che dorme e non dorme. A un tratto si schiarì la gola. Oggi è tutto caro. La sua voce era rauca, come se si nutrisse di ossa. Che cosa volete? Ma non accolse la proposta di luna di primavera finché un anello d'oro e due pettinini di giada non si aggiunsero ai braccialetti sul tavolo. È assolutamente fuori della norma, ma d'accordo. Amitabha! Si alzò. Seguitemi. Luna di primavera faticava a star dietro all'andatura veloce della vecchia. Mentre uscivano dal tempio, attraversavano il giardino del silenzio fino all'altro lato del pergolato di glicine e scendevano per un sentiero tortuoso coperto di aghi di pino fino a una lunga costruzione nascosta nei boschi. La sua facciata liscia era interrotta soltanto da una fila di minuscole finestre e porte. La Madre Superiora aprì una delle porte. Troverete nella credenza quel che vi serve. Prima che l'una di primavera potesse parlare, era scomparsa. La cella, illuminata da un cero alla parete, conteneva soltanto un letto, una bacinella e la credenza. Da essa l'una di primavera prese un abito nero con lunghe maniche fluenti e la comoda cuffia nera della novizia. Non impiegò molto a cambiarsi. Scivolò fuori dalla porta e ritornò rapidamente sul sentiero fra i pini verso l'edificio principale. Il cielo stava scurendosi, spegnendo il vermiglio e rubando l'oro. La grande sala dell'adorazione incombeva davanti a lei e solo i cornicioni erano ancora prigionieri della rete di luce. Aspettò un istante per prendere fiato, poi chinò il capo e salì i tre gradini con precauzione, usando le mani per non perdere l'equilibrio. Quella sera i due idoli giganti che montavano la guardia all'ingresso in cima alle scale sembravano sfidarla e lei abbassò gli occhi sul pavimento di terra battuta scivolando via. Quando fu dentro, si fermò di nuovo per calmare i battiti del cuore. Cercò il fazzoletto, ma non l'aveva. Respirò a fondo. L'aria era acre, impregnata di incenso e non dava sollievo. Il soffitto di legno a volta era più alto di quanto ricordasse, trasformatosi ora in tetto di un antro cavernoso. E le anziane vedove che pregavano ai piedi degli idoli le sembravano degli spettri e le loro preghiere gemiti di spettri. Le fiammelle delle candele che avevano acceso spandevano più ombra che luce. Nessuno la notò mentre passava oltre, verso la parete traforata in fondo alla sala che nascondeva gli dèi. Mentre si avvicinava, il dipinto del settimo inferno sembrò prendere vita. Nella luce baluginante, le fruste, brandite da demoni pazzi e bestie selvagge, ricadevano più volte sulle schiene di ladri di tombe e dei mangiatori di carne umana, spingendoli verso il fiume di fuoco. I loro occhi erano spalancati per il terrore, come quelli del ladro di tombe sullo spiazzo. Infine, si costrinse a proseguire, passando lentamente dietro la parete traforata fino alla sala dei tre Buddha. Gli dei che rappresentavano il passato, il presente e il futuro stavano dietro il lungo tavolo d'altare, carico degli arnesi necessari per propiziarseli e rivelare il futuro. Non vide nessuno, ma ebbe la sensazione che gli spiriti, soffocati dietro la parete, fossero sfilati nella sala dietro di lei e rabbrividì alla loro presenza invisibile, affrettandosi verso la nicchia buia, in fondo alla sala dove talento coraggioso doveva essere in attesa. Non c'era. Freneticamente guardò in tutti i recessi, ma non c'era nessuno. Infine si fermò davanti a Buddha, che rappresentava il presente, e cercò di riempirsi i polmoni e respirare normalmente. Che cosa poteva essere successo? Una strada terribile, aveva detto il portantino, non adatta. Ma cos'altro poteva fare? Cosa poteva fare ora se non aspettare? Kuan Yin, misericordiosa, fa che questa attesa non duri troppo. Lentamente si diresse verso un angolo oscuro vicino ai piedi del Buddha che rappresentava il passato e si inginocchiò. Il pavimento di terra battuta era umido. Chiuse gli occhi. Pietoso Buddha, ti supplico. Cercò di pregare in silenzio, ma la voce dentro di lei continuava a ripetersi i versi di una poesia semiscordata. Così velato, così buio, così denso, così grigio, così umido, così fradicio, così morto. Le parole continuarono a rimbalzarle nella mente ossessionanti. Aspettò un minuto, poi un altro, finché le sue gambe si intorpidirono. La sala sempre più buia, così morta. Improvvisamente quell'antro deserto echeggiò di un fracasso infernale. Un fetore la salì. Era odore di carne che bruciava. Si alzò e si rannicchiò contro il muro, fissando la parete traforata che ardeva di una luce infernale. Lentamente la luce girò intorno alla parete e penetrò nella sala, tracciandosi il cammino sul pavimento di terra battuta. Si coprì la bocca per soffocare l'urlo, poi, svuotata per il sollievo, soffocò una risata quando una schiera di monache che cantavano coi ceri in mano si riversò nella sala. Le monache erano seguite da novizie che si portavano appresso dozzine di polli, tre capre, due muli, una mucca e numerosi anatrocoli e conigli. Dietro veniva uno stormo di vedove che ridacchiavano e parlottavano, dandosi spintoni l'una contro l'altra per vedere meglio. Amitabha, l'intero convento si era riversato lì. Rapidamente si rifugiò all'ombra degli enormi Buddha. Per ultima entrò la madre superiora, la testa calva, lucente al chiarore dei ceri. Facendo cenno che le vedove si mettessero da un lato e gli animali dall'altro, aprì la strada un corpulento gentiluomo in un abito di seta verde che procedette con la testa china e le mani al centro del tavolo d'altare, davanti al Buddha del presente. Una dozzina di uomini al suo seguito trasportavano due grandi casse avvolte in broccato rosso. Il gentiluomo accese solennemente un bastoncino d'incenso e fece tre volte Kutu, poi si inginocchiò in silenziosa preghiera, mentre le monache borbottavano, le vedove chiacchieravano e gli animali schiamazzavano in un coro infernale. Quando la madre superiora batté il gong, il gentiluomo si alzò e con le mani congiunte, levate in un gesto di supplica, intonò: Vi libero dalla fatica terrena, così che possiate servire la mia onorevole madre nell'altro mondo. Il gong suonò di nuovo. Con un gesto rapido, i servi rimossero l'involucro di broccato. 100 colombe candide si levarono in aria, volando in alto e in basso, cercando freneticamente una via di uscita. Di nuovo il gong suonò Libero anche voi dalla fatica terrena, così che possiate servire la mia onorevole madre nell'altro mondo. Intonò di nuovo il gentiluomo, mentre i servi toglievano il rivestimento di broccato dell'altra cassa e ne facevano scattare le serrature. Un centinaio di serpenti ne strisciò fuori verso ogni angolo della stanza. Benché sapesse che erano innocui, l'una di primavera si raccolse le gonne intorno alle gambe. Fortunatamente nessuno le si avvicinò e nel giro di pochi minuti svanirono tutti dentro le crepe della terra. Le colombe ebbero più difficoltà a liberarsi, svolazzando freneticamente in alto finché una a una trovarono le fessure sotto le grondaie e fuggirono. Quando ne fu rimasto soltanto un gruppetto esausto che volava da una trave all'altra, il figlio gridò: Amitabha! Amitabha! Amitabha! E tutti gli altri fecero eco al suo grido e poi l'intera compagnia si voltò e tornò al di là della parete traforata. Di nuovo l'una di primavera fu sola. Doveva muoversi. Le sue gambe si erano irrigidite come fossero legno, eppure erano doloranti come per la puntura di 1.000 api. Mise lentamente un piede davanti all'altro finché raggiunse l'altare, accese una candela e l'incenso e di nuovo si inginocchiò a pregare. Il frullare frenetico di ali sembrava riempire la sala e nell'aria ristagnava l'odore di paura e di fuga. Buddha misericordioso supplicò: Fa che quegli uccelli se ne vadano, guidali tu. Improvvisamente udì dei passi, i passi di Talento Coraggioso. Un attimo dopo cadde in ginocchio accanto a lei. Buddha misericordioso! Gridò senza una pausa, poi sussurrò velocemente. L'ho visto, è qua! Senza voltarsi, l'una di primavera chiese a bassa voce: Ne sei sicuro? Proteggici, intonò lui. Sì, è uscito di qui alcuni minuti fa. Ma nessuno è stato qua dopo la cerimonia di liberazione della vita. Il Manciù Po Siao in persona ha liberato gli animali per sua madre. Non è vero! Gridò l'una di primavera. Attenta! L'ammonì Talento Coraggioso. Com'è possibile che quel figlio premuroso sia l'uomo corrotto che avete descritto? Sussurrò disperata. Un degno figlio può essere un funzionario indegno e noi non siamo qui per giudicarlo. Noi abbiamo il nostro dovere da compiere verso il clan. Lo manderò da te dopo cena questa sera. Si alzò. Vi prego, aspettate! Lo guardò, ma le parole le morirono in gola, vedendo il suo volto calmo e inespressivo come quello di uno sconosciuto, come se già gli dei gli avessero concesso la soluzione. Non aveva forse incontrato i suoi stessi presagi? Non aveva percorso la sua stessa strada? Forse non sapeva, oppure semplicemente sapeva che dovevano portare a termine la loro missione perché non esistevano alternative? Sii prudente! E uscì rapido dalla sala. La campana del convento annunciò l'arrivo della notte. L'una di primavera ebbe l'impulso di corrergli dietro, ma resistette e pochi minuti dopo avrebbe raggiunto il refettorio, dove avrebbe fatto amicizia con Po Siao, gli avrebbe offerto del vino, se ne sarebbe conquistata la fiducia e ne avrebbe stuzzicato l'avidità. Non si poteva tornare indietro. Di nuovo pregò: Buddha misericordioso, proteggici! Ma non trovò pace. E infine si alzò e scivolò via dalla sala, portandosi un cero per illuminare al ritorno la strada attraverso il bosco che portava alla sua cella. Sul letto era stato lasciato un vassoio per la cena. Prese un boccone di pane, ma aveva la gola troppo asciutta per inghiottire. Beve il tè, era freddo. Mise il vassoio fuori dalla porta e si sdraiò, cercando di ripassare nella sua mente il piano, un passo dopo l'altro, esattamente come l'avevano elaborato durante le sue lezioni d'inglese. Quando la campana suonò l'ora del cinghiale, la monaca si alzò e lentamente rifece il cammino verso la sala grande dell'adorazione. I lucignoli accesi delle lampade guizzavano e fremevano nelle piccole ciotole d'olio e la stanza era popolata di spiriti e spettri che si lanciavano dal soffitto. Si accovacciavano nelle nicchie, avvicinandosi furtivi alle ombre che si avvinghiavano alle pareti. I Buddha erano rossi di sangue, il loro respiro un miscuglio di fiamme e di gelo. Prendendo posto, sentì su di sé i loro sguardi e le sembrò di udire il fruscio delle loro vesti smosse da un soffio che le sfiorava le guance senza rinfrescarle. Da un lontano angolo del convento venne il debole salmodiare di un sutra, il battere di mu su mu, il rullare di un antico tamburo. Per terra giaceva una colomba. La monaca la posò sull'altare. La sua anima se n'era già andata. Nella cappella buia dietro il Buddha del passato si inginocchiò in attesa. Due uomini elegantemente vestiti entrarono nella sala. È troppo tardi, se n'è andata. Torniamo indietro e finiamo il vino, disse il Han. Non essere così frettoloso, mio nuovo amico. Non abbiamo guardato nelle cappelle, rispose l'altro, un manciù. E qui non c'è nessuno. Come puoi esserne certo? Smettila di trascinarmi via. Domani, ti prometto di presentarti domani. Perché non ora? Beh, non ti biasimo. Il manciù ebbe un sorriso di compassione. Se lei è come tu dici, non c'è da stupirsi che tu la voglia serbare per te. Ma non hai fatto che vantarti per tutta la sera. Ora lascia che sia io a giudicare. I due uomini semiubriachi si davano gomitate e strattoni finché il manciù riuscì a liberarsi. Corse subito verso la cappella lontana dove la monaca sgranava il suo rosario. E lei? No! La risposta fu brusca. No, non è lei. Guarda bene, amico mio, insisto. Forse è lei. E poi calmo. È lei. Presentami. Sono ansioso di perdere la scommessa che abbiamo fatto. Se può prevedere il mio futuro, tu vinci il mio stallone. Forza! Mentre l'uomo si avvicinava alla monaca inginocchiata, lei alzò gli occhi. Scusatemi, santa sorella, è il vostro indegno servo, un tempo vostro vicino. Che è successo? Disse l'una di primavera. È tardi. È imperdonabile da parte mia disturbare le vostre preghiere, ma un potente funzionario vuole a tutti i costi conoscervi questa sera e, data la mia meschina posizione, come potevo rifiutarmi? Posso presentarvi l'onorevole Pu Xiao? Anche le monache hanno bisogno di amici in posizioni elevate. Amitabha? Si alzò, si voltò con le mani congiunte e si inchinò. Posso esservi utile? Sarò felice di pregare per i vostri antenati. Grazie, santa sorella. Ai bisogni dei miei antenati ho già provveduto, ma se volete soddisfare un'altra mia richiesta ve ne sarei molto grato. Ne sono onorata, parlate dunque. Il mio amico qui mi ha informato del vostro particolare talento. La monaca si accigliò e guardò l'uomo che se ne stava a capo chino. Sono ubriaco, vaneggiavo. Come hai potuto rivelare il mio segreto? Sono diventata monaca per sfuggire a tutti coloro che mi tormentavano per conoscere il loro futuro. Su, vi prego, non agitatevi, tentò di calmarla Pu Xiao, divenuto più ragionevole, poiché io so, e voi sapete che io so, e siamo soli, soddisferete la mia richiesta? La monaca chinò il capo, poi guardò al Han. Non ritirerò la mia promessa, ma, caro vicino, tu non puoi essere presente. Devi andartene. L'uomo si inchinò ossequiosamente mentre retrocedeva, allontanandosi. Procediamo? Chiese la monaca. Si inginocchiarono insieme davanti al Buddha del presente. Pu Xiao espose i particolari del suo oroscopo e i nomi dei grandi veggenti che aveva consultato. Allora la monaca cominciò a contare sulle dita, calcolando i 10 steli celesti, i 5 elementi e i 12 rami, oltre gli animali solari, rivelando i particolari del suo carattere e della sua vita. Mentre lei parlava, l'uomo annuiva, entusiasta. Quando ebbe finito, era esterrefatto. Santa sorella, non avete sbagliato. Tutto quel che avete detto è vero. C'è qualcosa del vostro futuro che desiderate sapere? Si è fatto tardi. Lui sorrise implorante. Vi prego, supplicò, ditemi soltanto quanti anni di vita mi restano. La santa sorella fece alcuni rapidi calcoli. Vorreste cortesemente gettare per terra un bastoncino di incenso? Ho bisogno di altri segni. Possiamo prese il contenitore dall'altare. E lo scosse finché uno dei bastoncini di legno cadde per terra. La monaca lesse il simbolo sul bastoncino. Vi prego, fatelo ancora. Che cosa c'è? Niente, i segni sono confusi. Desidero essere assolutamente sicura. Questa volta Pu Xiao agitò il contenitore più a lungo di prima. Infine un bastoncino cadde a terra. La monaca lo lesse. Pensierosa fece scorrere un dito sopra i simboli, poi chiese: Cosa vi hanno detto gli altri veggenti? Che vivrò abbastanza da vedere i miei pronipoti. Ah, certo, hanno ragione. Vivrete abbastanza da vedere molti pronipoti. Santa sorella, voi non siete sincera con me. Signore, vi sbagliate. Allora perché questa confusione di segni? Beh, talvolta è meglio non sapere troppo. Lasciate che sia io a giudicare. La monaca immobile sgranava soltanto il rosario nella mano sinistra. Infine parlò di nuovo. Posso chiedervi di lasciarmi meditare un poco? Non voglio giungere a conclusioni affrettate. Pussiao acconsentì. Quando l'incenso fu bruciato lentamente nel suo supporto di ottone, la monaca cominciò a battere ritmicamente sul pesce di legno. Pussiao, innervosito, si strappava via i fili dall'orlo della veste ripiegata sulle ginocchia. Dopo che l'incenso fu bruciato un po', la santa sorella smise bruscamente di battere il tamburo e si afflosciò. Con una voce simile a quella di una madre che chiama il figlioletto, gridò: Tigre pelata! Tigre pelata! Questo è il mio soprannome da bambino. Così mi chiamava mia madre. Tigre pelata! Siete voi, onorevole madre? La monaca non rispose, ma continuò a chiamare il suo nome. Pussiao osservava disperato, la fronte luccicante di sudore. Improvvisamente la monaca tacque. Per un attimo sedette immobile come l'aria nella stanza, poi raccolse il bastoncino e riprese a battere il tamburo come prima. Ho detto qualcosa? Chiese. Pussiao era pallidissimo, la sua voce rauca. Non ricordate, santa sorella? No, non ricordo mai. Lui prese il fazzoletto dalla manica e si asciugò la fronte, poi, con voce decisa, le chiese: Che cosa avete appreso? Sarò longevo. Lei annuì lentamente. Gli altri avevano proprio ragione. Non capisco come possa essermi confusa. Lui l'afferrò per un braccio, poi la lasciò andare come se scottasse. Voi mentite! Io non vi credo! Ho esaurito le mie facoltà, è tardi, è ora di ritirarsi. Voi non mi avete detto la verità. Vi prego di accettare le mie scuse. Vi do la buonanotte. Si alzò e si allontanò dirigendosi verso la porta. Voi non ve ne andate! Urlò Pussiao e poi più controllato. Vi ordino di sedervi di nuovo. Lei esitava. Santa sorella, voi non lascerete questo luogo finché non mi avrete detto tutta la verità. Oh, ma non ne verrà fuori niente di buono. Lasciate che sia io a giudicare. Lei abbassò gli occhi. Ho paura. Di cosa? Del vostro potere. Sul mio onore non andrò in collera. Parlate. Raccogliendo fra le mani il rosario e avvicinandoselo al seno, parlò con dolcezza come un bambino. Gli altri non sbagliavano. Vi erano stati concessi oltre 70 anni, ma questa sera ho individuato un'interferenza forte e inaspettata di origine ignota. Non è né una malattia, né un incidente, né un'infermità. Il mio intuito mi dice che voi stesso deciderete il momento della vostra morte. Quando? La vostra vita terminerà questa sera. Che cosa volete dire? Il sudore gli gocciolava sugli occhi, sbatté le palpebre, ma non distolse lo sguardo da lei. Sicuramente mi sbaglio, signore, non vedo come potrei avere ragione, perciò devo essere in errore. No, aspettate, cosa avete visto? Ho visto una vecchia con la pelle d'alabastro e i capelli argentei, era in grande angoscia, gemeva e piangeva, non posso sapere con certezza chi sia, ma certamente un membro della vostra famiglia, forse una nonna o una zia. No, era mia madre. Che altro? Continuava a chiamare Tigre pelata. Ha detto che soltanto lui poteva impedirle di diventare uno spettro affamato, un'anima che vivrà in eterno sola nell'oscurità silenziosa. E lui scosse il capo. Ma non capisco. Mia madre non ha alcun motivo di temere. È sepolta in una magnifica tomba, in un luogo scelto da 6 geomanti. Ho osservato i 3 anni di lutto. Onoro gli dèi con tutte le necessarie preghiere e offerte. Come potrebbero punire un'anima che in terra ha condotto una vita virtuosa e il cui figlio accresce i suoi crediti spirituali nell'altro mondo? Scrutò il volto impenetrabile della monaca. Lei abbassò gli occhi e borbottò una breve preghiera, poi lo guardò di nuovo. Vostra madre, signore, teme che la sua tomba venga profanata. Dice che uomini in collera potrebbero spargere le sue ossa sulla terra, a meno che Tigre pelata non li plachi. Si interruppe. A meno che Tigre pelata non li plachi, ripeté, sua madre dovrà soffrire un inferno più terribile del fiume di fuoco e del mare di scorpioni. Ma cosa posso fare? La voce di Pussiao era debole, appena percettibile. Chi sono questi uomini in collera? E se deve accadere questa notte, dove sono e ora? Non ho idea. È per questo che credo di essere in errore. Pussiao si nascose la faccia tra le mani e pianse come un bambino. Madre! Supplicò. Ditemi cosa fare, lo farò, ve lo giuro, madre, vostro figlio vi prega di dirgli cosa fare. Mentre lui si inginocchiava, La monaca si voltò e si allontanò rapidamente dalla sala. Era l'ora del coniglio quando Pu Xiao raggiunse il suo alloggio. Non si accorse che la sua sentinella era addormentata e aprì la porta. Una volta dentro crollò sulla sedia più vicina senza rendersi conto che era scosso da brividi. Fradicio di pioggia allungò una mano verso la bottiglia di vino. Un barlume di luce penetrò dalla finestra. Rise forte, era salvo. Guardò verso il letto e pensò alla donna che aveva progettato di incontrare. Doveva essere venuta e andata via prima del suo ritorno. Per la prima volta notò il pacchetto. Era stato lasciato sui guanciali. L'involucro giallo, usato esclusivamente dalla famiglia imperiale, era talmente incrostato di fango che poté appena distinguere il suo nome. La sua mano tremava mentre toglieva l'involucro e apriva il coperchio della scatola d'oro. Con precauzione, ne estrasse la lunga corda di seta. La fissò un istante prima di capire la verità. Chi aveva svelato i suoi segreti al reggente? La sua terza moglie o l'eunuco? Che cosa avevano detto per incriminarlo? Oh, gemette, che importava? Era l'ora prestabilita. Come se recitasse una parte ripetuta più volte, fece passare la corda intorno a una trave appena dietro la porta chiusa. Sistemò il cappio e collocò uno sgabello intagliato sotto di esso. Poi tornò alla sua sedia. Finì di vuotare la bottiglia, continuando a fissare il cappio di seta. Sembrava così innocente, come la corda del suo aquilone preferito. Una carpa arancione regalatagli da sua madre, che si era impigliato nei rami del pesco nel grande cortile del suo Laokia, e i cui brandelli avevano svolazzato al vento tutto l'inverno. Cedette con sollievo all'alcol. Il suo corpo divenne un peso estraneo che gli gravava addosso, ma che non faceva ormai più parte di lui. Si toccò la faccia e non sentì niente. Si alzò barcollando, ma poi ci ripensò. Le sue gambe tremanti lo avessero fatto cadere, la sentinella sarebbe potuta correre prima che fosse pronto. Lentamente si mise in ginocchio, strisciò a carponi nella stanza, toccò i piedi a forma di artigli dello sgabello di palissandro, ci salì sopra. E si fece scivolare il cappio intorno al collo. Si appoggiò alla parete e chiuse gli occhi. Madre, presto sarò da voi. Ma non ebbe il coraggio di allontanare con un calcio lo sgabello da sotto i piedi. Ebbe un sorriso amaro. Si conosceva bene ed era pronto. Con uno sforzo angoscioso gridò: Guardia! Di colpo, la sentinella spalancò la porta, rovesciando per terra lo sgabello e spezzando il collo di Pusiao.